è una linea, come se fosse una linea dritta nella parte centrale della pianta del piede, partendo dalla fine del tallone fino all'inizio del metatarso. Sì. La facciamo in entrambi i sensi, andata e ritorno, partendo da un punto qualsiasi. E poi possiamo fare tutta la parte perimetrica del piede, della pianta del piede. Sempre utilizzando i due pollici sovrapposti. Esatto, con delle pressioni abbastanza lunghe, comunque sempre intorno ai 5-10 secondi l'una. Molto lente, molto profonde, e questa già è una buona parte distensiva. E successivamente possiamo iniziare a fare una digitopressione, in questo caso con un pollice solo. Sì. Sulla parte superiore del piede, e le linee da passare sono le linee che sono comprese tra i tendini delle dita dei piedi, che sono i tendini, sono quei cordoncini che si possono vedere e sentire sulla parte superiore. Noi ci dobbiamo stare in mezzo a questi tendini, quindi in pratica sono quattro linee da percorrere avanti e indietro con delle pressioni sempre abbastanza profonde e lente. E queste linee qua, sia quelle inferiori che quelle superiori, le possiamo percorrere tutte le volte che vogliamo in pratica. Ma un massaggio, per essere benefico, quanto deve durare, signor Corsi? Diciamo che non esiste una quantità di tempo minimo, perché tutto quello che si riesce a fare comunque è buono. Diciamo che se si lavora sul piede, normalmente non si deve superare un'ora, perché poi potrebbero esserci dei fastidi così. Certo, un'ora sicuramente magari non ce l'avremo per dedicare tutto al massaggio del nostro piede, ma direi che con una decina di minuti i nostri piedi hanno un sollievo quasi immediato. Esatto, un sollievo immediato, anche un leggero sgonfiamento, poi dipende dall'intensità della pressione che si riesce a fare, e un riequilibrio energetico che si distribuisce un po' su tutto il corpo, perché vengono stimolati tutti i punti riflessi del corpo, insomma. È bene utilizzare anche un olio o una crema, o lo facciamo, come si dice, a secco? No, per fare la digitopressione bisogna farla a secco, perché quando si fanno queste digitopressioni qualsiasi crema o olio non ci permette di fare la pressione come vorremmo, perché scivoleremmo sulla pelle. Il momento ideale, signor Corsi? Tutti i momenti sono buoni per questo tipo di massaggio. Se a noi piace il massaggio profondo e lo facciamo profondo, ce lo facciamo fare da qualcuno che ce lo fa profondo, forse è meglio non farlo immediatamente dopo i passi. Grazie allora, signor Corsi, quindi una buona idea è un massaggio al giorno ai nostri piedi, meglio se riusciamo a farcelo magari dal nostro partner. Meglio ancora, perché sicuramente riesce a trovare una posizione più comoda per farlo di quella che probabilmente riusciremo a farlo per noi stessi. Signor Corsi, mi sento già sollevata, intanto la ringrazio e la saluto. Buona giornata. Grazie. E per oggi è tutto, vi ringrazio per essere stati con noi e come sempre vi do appuntamento a domani dopo il GR delle 11. Buon pomeriggio da Nicoletta Carbone.